Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Uccisa una fotografa dell'Associated Press in Afghanistan, ferita una giornalista, il paese domani al voto per le presidenziali. Riforme bloccate da 30 anni per colpa dei professori, dice il ministro Boschi, ma la fronda PD al Senato sulla riforma della Costituzione è ampia. Grillo, Renzi al 41 bis, come i mafiosi. I mercati continuano a rispondere bene agli annunci di Draghi, lo spread intorno a quota 160 punti, ma deboli le borse. Tra poco non sapremo più dove mettere i rifiuti, dice il sindaco di Roma Marino. Il ministero, sono comune e regione a dover risolvere il problema. Una tonnellata di veleni al giorno sversati nel fiume per tutti gli anni 60, così il PM nella requisitoria del processo sulla discarica di Bussi nel Pescarese. Per Schumacher ci sono segnali di risveglio e coscienza, riferisce la sua agente. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre se volete le potete commentare al 349-238-6666 oppure scrivendomi su Twitter, oppure c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e infine l'email effettogiorno@radio24.it. Tra un attimo andremo in Afghanistan per parlare degli eventi di questa mattina. È stata uccisa una fotografa e ferita una giornalista in un paese che si avvicina alle elezioni presidenziali, alla vigilia in realtà delle elezioni presidenziali. Ma prima di tutto andiamo a parlare di politica, perché ci sono le dichiarazioni di questa mattina del ministro Boschi, un nuovo scontro con Beppe Grillo che usa parole durissime nei confronti di Renzi. Facciamo il punto con la nostra Elisabetta Fiorito da Montecitorio. Buongiorno. Elisabetta? Elisabetta Fiorito evidentemente non c'è. Allora, iniziamo con gli altri argomenti e poi andremo anche all'Afghanistan e alla politica. Mi dicono che finalmente è pronto il collegamento anche con l'Afghanistan. Dunque, Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, profondo conoscitore dell'Afghanistan, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, le notizie di questa mattina ci raccontano, sono notizie drammatiche e che riguardano nostri colleghi e riguardano una fotografa che in realtà è una giornalista tedesca di 48 anni che è rimasta uccisa oggi, tra l'altro vinse il Pulitzer nel 2005, e di una giornalista ferita. Ulteriore segnale di tensione nel paese che si avvicina al voto per le presidenziali, Alberto. Ma non c'è dubbio, qui la situazione in Afghanistan è molto tesa, come si sa, da sempre, non è una novità di oggi, ma certamente con le elezioni e l'intimidazione ai candidati, agli stessi elettori, le influenze esterne che provengono dalla presenza dei talebani che arrivano dal Pakistan, beh, tutto questo naturalmente accresce l'incertezza per una consultazione che deve disegnare il successore del presidente Hamid Karzai. C'è il rischio, secondo te, che la tensione si incrementi ulteriormente tra domani e dopodomani, che ci siano nuovi attentati sostanzialmente? Ma è possibile, perché tra l'altro, come sapete, gli elettori afghani su una popolazione di 30 milioni sono 11-12 milioni, le schede in circolazione però sono già 20 milioni. Ci sono state delle attentati come quello di oggi, ma anche nei giorni precedenti ci sono stati attentati kamikaze, attentati con la bomba, quindi è probabile che ci siano altri tentativi per in qualche modo intimidire l'elettorato afghano e cercare di tenere la gente lontana dalle urne, soprattutto in quelle aree lontano dalla capitale dove è inferiore la presenza delle forze di sicurezza. Grazie Alberto Negri per le tue analisi, come sempre. Veniamo dunque alla politica e forse siamo in grado di collegarci con Elisabetta Fiorito da Montecitorio per fare il punto tra le dichiarazioni di Grillo e quelle del ministro Boschi. Elisabetta, eccoci. Sì, proprio così, Simone, avanti come un rullo compressore, ha detto ieri sera Matteo Renzi, il patto con Berlusconi reggerà, e questa mattina è arrivato il monito del ministro delle riforme Maria Elena Boschi sui professori. Temo solo una cosa, dice Boschi, che in questi 30 anni le loro prese di posizione abbiano bloccato il processo di riforme, che non è più rinviabile nel nostro paese. Trovo legittimo che Rodotà abbia cambiato idea, anche se, fa notare la Boschi, nell'85 fu firmatario della proposta di legge che voleva abolire il Senato. ma ci sono poi, dice Boschi, altrettanti costituzionalisti validi. L'ottimismo di Renzi però sul patto del Nazareno, ricordiamo il patto con Berlusconi, non viene però condiviso da Renato Brunetta. Allora sentiamo quanto ha detto il capogruppo di Forza Italia a Mix 24. Sta succedendo esattamente quello che è successo con Monti, che Berlusconi con grande generosità appoggiò il governo Monti. Il governo Monti distrusse l'Italia, quando Berlusconi se ne accorse fece cadere il governo Monti, e con grandi risultati positivi per l'Italia e anche per il nostro partito. Sta succedendo esattamente la stessa cosa, è la stessa sindrome. Grazie. Monti era un governo non eletto dai cittadini, Renzi è un governo non eletto dai cittadini. Ecco, questo è Brunetta, Mix 24, come avete riconosciuto anche Giovanni Minoli. Altro fronte per Renzi è costituito sia dal PD e dalle proposte anche di Vannino Chiti sul disegno di legge costituzionale sul Senato e sulla fronda possibile dei senatori, appunto, che non sono d'accordo per un Senato elettivo, e anche invece dalle accuse di Beppe Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle, oggi spara a zero se esistesse reato penale per menzogna pubblica aggravata. Renzi, dice Grillo, andrebbe subito al 41 bis, ricordiamo che è il carcere duro previsto per i boss della mafia. Una risposta all'accusa del Premier: noi facciamo, ha detto Renzi, loro pensano a votare contro. Insomma, una giornata politica piuttosto movimentata. Simone, a te. Grazie Elisabetta Fiorito, e a movimentarla ulteriormente, chissà che cosa, che problemi genererà e se ne genererà all'interno del Partito Democratico, c'è il fatto che è arrivato in Senato il DDL delega al governo di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno a maternità e conciliazione. Si compone di 2 capi e 6 articoli, è l'altro tassello dopo il decreto sui contratti a termine e l'apprendistato del Jobs Act. Vedremo che cosa succederà anche da questo lato, perché come sapete il tema è sensibile all'interno del PD. Andiamo a Roma per parlare del problema dei rifiuti, un problema sollevato ieri dal sindaco Marino. Un'interdittiva del prefetto e poi un'ordinanza del sindaco che di fatto la gira, e un processo che inizia a giugno per il patron dell'ex mega discarica di Malagrotta, Maglio Cerroni, e altri 6 indagati. È una vicenda complessa quella che riguarda la spazzatura della capitale, quella spazzatura che, a detta del sindaco, tra poco seppellirà strade e piazze della città eterna stile Napoli 2008. Lo scenario è questo, secondo Marino, a meno di trovare una soluzione a breve. Un allarme che il primo cittadino ha voluto condividere ieri con il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone. Ma facciamo un passo indietro. Tutto parte dall'arresto di Cerroni e dall'interdittiva firmata dal prefetto Pecoraro il 22 febbraio, che vietava rapporti da parte degli enti pubblici con le società facenti capo ai soggetti coinvolti nell'indagine, soggetti che però erano anche monopolisti del servizio di raccolta rifiuti. Di qui la successiva ordinanza di Marino, che di fatto scavalcava l'interdittiva e consentiva il conferimento da parte di AMA negli impianti per un massimo di 3 mesi, e cioè fino al 26 maggio. Ma quella data ora si avvicina, e dopo dove andranno a finire i rifiuti? Non voglio riaprire Malagrotta, dice il sindaco, ma non voglio forzare la legge reiterando l'ordinanza, meglio piuttosto un commissario straordinario. Di questo parlerà con il ministro dell'ambiente Galletti la prossima settimana, ma dal ministero intanto arriva un richiamo: attenzione allo scaricabarile, comune e regioni si prendano le loro responsabilità. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. È un'altra storia che ci parla di ambiente, adesso nel giorno nel quale tra l'altro l'Istat diffonde dei dati secondo i quali le tematiche ambientali interessano poco meno della metà degli italiani, e la storia è quella della discarica di Bussi, della quale tra l'altro ci siamo già occupati. Sentiamo. Sono passati quasi 7 anni dalla scoperta della mega discarica di Bussi in provincia di Pescara. 7 anni da quando il Corpo Forestale scoprì che in quell'area erano state scaricate abusivamente circa 500.000 tonnellate di sostanze pericolosissime per la salute e per l'ambiente, provenienti dal vicino stabilimento Montedison. Il processo davanti alla Corte d'Assise di Chieti è iniziato solo lo scorso anno, però, con le ipotesi di disastro ambientale doloso e avvelenamento delle acque ad uso potabile. Processo a porte chiuse e rito abbreviato per le 19 persone sul banco degli imputati, per lo più ex amministratori della Montedison di Bussi. È per questo processo, su richiesta dell'Avvocatura dello Stato, che l'Istituto Superiore di Sanità ha prodotto quella relazione che la settimana scorsa ha destato tanto clamore. Basti ricordare il punto dell'acqua contaminata, diffusa fino al 2007, senza limitazioni né controlli a 700.000 persone. Ma del resto non poteva che esserci contaminazione se davvero, come hanno affermato oggi i PM nella loro requisitoria, fino agli anni 60 dal sito di Bussi si sversava una tonnellata al giorno di veleni residui della produzione direttamente nel fiume Tirino. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo in Abruzzo per l'ultima parte del nostro viaggio verso l'anniversario, i 5 anni dal terremoto dell'Aquila. È stato il terremoto con più inchieste intorno. Ci sono state indagini su quello che è successo prima della scossa del 6 aprile 2009 col processo agli scienziati della Commissione Grandi Rischi. Ci sono stati i fascicoli sui vari crolli. Ci sono state poi le inchieste su sospette corruzioni intorno alla ricostruzione. E resta sempre il rischio delle infiltrazioni mafiose. Quasi esclusivamente di terremoto si occupa la Procura dell'Aquila. 6 sostituti e un capo. È a questo manipolo di magistrati che la gente ora chiede risposte. Per far morire i nostri figli un po' meno, come recita una scritta lasciata sul cancello della cittadella giudiziaria divenuto un muro del pianto. Dei 200 fascicoli aperti sui crolli, solo 20 sono arrivati a processo. Per lo più, infatti, i presunti responsabili di lavori fatti male o di mancanza di controlli erano già morti e i 20 procedimenti si sono conclusi in primo grado con 18 condanne, 2 assoluzioni e 2 estinzioni per morte degli imputati. In autunno comincerà l'appello per il processo alla Commissione Grandi di Rischi e la Casa dello Studente, mentre si continua ad indagare su tangenti e favori dietro ponteggi e casette, un filone che ha già portato alle dimissioni tra l'altro del vice sindaco. E il procuratore Fausto Cardella ammette: di certo non mi sono meravigliato. Si tratta di episodi gravi, si tratta di episodi, ma qui all'Aquila io non mi sento di dire sistema o di situazione generalizzata. Per il momento questi fatti li abbiamo individuati. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, L'Aquila. E questo è il quadro dall'Aquila. Dicevamo poco fa che è arrivato in Senato il DDL delega al governo di riforma degli ammortizzatori sociali e si parla anche di sostegno alla maternità e alla conciliazione e quindi di lavoro femminile. Bene, oggi dal Fondo Monetario Internazionale è arrivato una sorta di allarme per quanto riguarda il lavoro femminile in Italia. A parte ogni considerazione di progresso sociale. Il concetto si nasconde tutto in questa frase. Christine Lagarde non è nuova al richiamo all'utilità del lavoro femminile, soprattutto dal punto di vista economico, perché si tratta di forza lavoro in media di alto livello, che potrebbe dare slancio a economie in crisi, come la nostra, o che hanno vissuto lunghi periodi di stagnazione, come il Giappone. Al paese guidato da Abe fa riferimento il direttore del fondo. Nonostante forti disuguaglianze in molti ambiti, il tasso di disoccupazione femminile è più alto di quello italiano, più o meno il 63% contro il 46. In ufficio però la maggioranza sono single o sposate senza figli. Il Giappone ha cercato di puntare sull'incremento nell'offerta di servizi di asili nido all'infanzia come supporto alla maggiore partecipazione al mercato del lavoro. E il tema dei servizi è un tema abbastanza critico anche all'interno del nostro paese. Dunque una strada da percorrere, secondo Alessandra Casarico, economista e docente alla Bocconi. L'altra strada è quella intrapresa ormai da anni dall'Olanda, dove l'80% delle donne che lavorano ha un contratto part-time. Si potrebbe anche fare un passo avanti con lo smart working. Il cosiddetto lavoro agile, questo è un altro modo di promuovere il lavoro flessibile, con l'idea che insomma l'organizzazione aziendale può diventare più efficace, più efficiente anche nella misura in cui si dà una maggiore flessibilità sia ad esempio negli orari sia nei luoghi di lavoro. La proposta di legge è di gennaio 2014, speriamo non si perda. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Due diligence conclusa per quanto riguarda Alitalia, Etihad, quindi l'accordo sarebbe da un passo, ve l'abbiamo detto ieri in effetto giorno, già oggi potrebbe arrivare un'offerta. Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, è così? È così, nel senso che potrebbe, ancora non è confermato, comunque quello di cui che potrà avvenire e che dovrebbe avvenire se non oggi molto a breve non è ancora l'offerta, ma la firma di una lettera d'intenti con la quale le due compagnie, ma soprattutto Etihad, annunciano l'inizio di una fase di trattativa in esclusiva che dovrebbe durare almeno un mese e mezzo, insomma questo è il tempo stimato. Alla fine, se si soddisfano tutte le condizioni, alla fine ci sarà l'offerta. Comunque sarebbe un passo diciamo, che segna il passaggio dalla fase di analisi dei conti a quella del negoziato, quindi un passo ulteriore verso l'accordo, ma non ancora l'offerta finale. Senti Gianni, in realtà c'è un po' di perplessità, soprattutto in Europa, su quanto si sta muovendo Etihad sulle compagnie europee. È così, Etihad, come altre compagnie della regione del Golfo Persico, sono molto ricche, vengono accusate dalle compagnie europee, da Lufthansa, ma anche da British Airways, nel tempo si sono succedute varie dichiarazioni, di godere in sostanza di aiuti come di aiuti di Stato, sono compagnie che appartengono ai loro stati, pagano, loro dicono di pagare a prezzi di mercato il carburante, ma insomma sono paesi ricchi di petrolio, pagano meno tasse e quindi sono molto aggressive. Anche l'Unione Europea sta tenendo d'occhio i loro investimenti, hanno già Etihad intervenuta già nel capitale della tedesca Air Berlin e lo ha aumentato di recente al massimo possibile, cioè al 49%. Ha deciso di investire in Svizzera nella piccola Darwin Airline e nella quella che adesso si chiama Air Serbia, quindi di fatto stanno sfruttando al massimo la leva finanziaria, la loro ricchezza per invadere il mercato continentale. Vedremo che cosa succederà, grazie nel frattempo a Gianni Dragoni e noi, per chiudere questa prima parte, ci occupiamo di Michael Schumacher, lo facciamo con il nostro Carlo Genta perché ci sono buone notizie, Carlo, no? Sì, Simone, ci sono buone notizie, questo è un caso in cui mi attengo alla cronaca stretta senza nessun commento, le notizie arrivano dall'unica voce ufficiale attendibile che esce dal clan Schumacher, cioè la sua portavoce Sabine Chem, che ha detto che Michael fa progressi sul suo percorso e mostra momenti di coscienza e di veglia. Poi siamo a suo fianco durante questa battaglia lunga e difficile con l'equipe dell'ospedale di Grenoble, eccetera. Però la notizia è appunto che ci sono buoni segnali da Michael Schumacher, ripeto, momenti di coscienza e di veglia. La portavoce ha poi smentito una delle tante voci che si sono diffuse, cioè come la moglie Corinna, la moglie di Schumi, stia preparando una stanza nella sua residenza di Glandi in Svizzera per accoglierlo, smentisce che lascerà a breve il settimo piano dell'ospedale di Grenoble, insomma rimane lì, però sta migliorando e questa è una voce ufficiale e non possiamo che esserne felici. Grazie Carlo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Uccisa una fotografa della Associated Press in Afghanistan, ferita una giornalista, il paese domani al voto per le presidenziali. I mercati continuano a rispondere agli annunci di Draghi, lo spread intorno a quota 161 punti, ma deboli le borse, ne parleremo più avanti. Riforme bloccate da 30 anni per colpa dei professori, dice il ministro Boschi, ma la fronda PD al Senato sulla riforma della Costituzione è piuttosto ampia. Tra poco non sapremo più dove mettere i rifiuti, dice il sindaco di Roma Marino. Il ministero, sono comune e regione a dover risolvere il problema. E torniamo adesso a parlare di enti locali e di province dopo l'approvazione ieri della riforma. Saluto Leonardo Muraro, che è presidente della provincia di Treviso, dell'Unione delle Province del Veneto e anche vicepresidente dell'Unione delle Province Italiane. Ho detto tutte le cariche, Muraro, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Sì, sono tutti. Ho detto bene. Ho detto bene e l'ho dette tutte. Benissimo. Sento una cosa. Innanzitutto un suo giudizio. Ricordo che Muraro è della Lega, anche per dare insomma la collocazione politica. Un suo giudizio su quello che è stato approvato ieri. Ma noi riteniamo che sia un provvedimento un po' raffanato e non attinente a quelle che sono le aspettative, soprattutto dei cittadini. Crediamo si creerà abbastanza confusione e questa è la grande preoccupazione che noi abbiamo. Lo abbiamo ribadito in tanti mesi che ci sarà un incremento di costo, non a caso questo provvedimento ricordiamo che hanno aumentato di 22.000 consiglieri comunali in tutta Italia e di 3.000 assessori in più, a fronte di 3.000 amministratori provinciali eletti dai cittadini che dovranno andare a casa, subentreranno, perché le province non vengono eliminate, un'assemblea di sindaci che sarà governata dai partiti. E quindi dice lei, insomma, poco abbiamo fatto. Però di fatto, Muraro, il ragionamento che ha sempre fatto Graziano Del Rio, che la persona si è inventata questo DDL, è: la cosa importante per noi è non mandare al voto le 52 province che dovevano andare a votare, appunto, di fatto in contemporanea con le europee. E almeno questo è stato scongiurato. Beh, allo stato attuale sì, però a fronte di una riforma del genere, le competenze che sono state riattribuite totalmente dallo Stato, anzi hanno attribuito un'ulteriore competenza, come saranno svolte in quelle 57-58 province che, sommando gli anni passati, sono quasi 80, che attualmente sono commissariate, dove si prevede l'ordinarietà e non la straordinarietà? Io le faccio un esempio. Io scado nel 2016, per cui non è un esempio che può essere applicabile nella mia provincia, ma però in tanti altri territori sì. Quest'anno abbiamo avuto un incremento nelle preiscrizioni scolastiche secondarie, che è una competenza provinciale, di 2.450 ragazzi in più. A fronte di ciò dovrò trovare ulteriori 53 aule per poterli fare sedere e farli studiare. Se un commissario o un presidente che subentrerà a titolo gratuito fino a fine anno, nel quale ci sarà il nuovo organismo di secondo livello, non può fare la straordinarietà, cioè decidere le opere strategiche. Come si potranno risolvere questi problemi? Questi sono i grandi dubbi che noi abbiamo. Certo, però naturalmente è una fase transitoria, in attesa in realtà, perché alla fine è questo, lo abbiamo sempre raccontato anche da questi microfoni, in realtà di una riforma costituzionale che poi alla fine le province le abolisca. Ma su questo ho molti dubbi, altrimenti non avrebbero deliberato questo provvedimento e soprattutto non avrebbero riconfermato quelle competenze, aggiungendo delle nuove competenze alle province. E se dovessero anche eliminare l'ente provincia, l'area vasta, chi la determina? A fronte di una realtà nazionale dove abbiamo circa il 70% di comuni sotto i 5.000 abitanti, chi potrà governare i territori d'area vasta? Nelle funzioni che sono attribuite alle province, come la pianificazione d'area vasta, edilizia scolastica, viabilità, ambiente, tutti questi temi chi li farà? È per questo che credo che la pianificazione d'area vasta si manterrà una delle realtà territoriali, perché è indispensabile, lo dimostra in tutte le realtà europee. Senta Muraro, allora questa è la sua posizione sulle province, ma dato che lei è della Lega, è presidente di una provincia veneta, non posso non farle una domanda sugli arresti dell'altro giorno, naturalmente, sui 24 secessionisti, insomma quelli del Tanco, come sapete tutti, il presunto carro armato, che in realtà era una ruspa che stavano tentando, alla quale stavano tentando di dare una blindatura. Vorrei un suo giudizio. Lei ha parlato bene di una ruspa che è stata un po' mitigata. Non sono stati trovati, a quanto si conosca, delle armi o delle cose offensive. Credo che sia la risposta di uno Stato a un'esigenza di un territorio che si riconosce nell'autonomia, a fronte di un plebiscito che è stato fatto pochi giorni fa, dove oltre 2 milioni di... Muraro, però lo sa che là i numeri sono falsi. Ma mettiamo che siano anche la metà falsi. In realtà i calcoli insomma fatti da una serie di siti consultati al Corriere del Veneto parlano in realtà di 300.000 persone. Ma adesso è opinabile, perché loro hanno pubblicato tutti i nominativi, stanno pubblicando tutti quanti i dati. La realtà, se non vogliamo guardare la matematica, la realtà è che qui abbiamo una effervescente crescita di movimenti che richiedono l'autonomia, che richiedono l'indipendenza, ma diciamo che richiedono un po' di più autogoverno nel territorio, il quale il governo Renzi credo non potrà fare lo struzzo mettendo la testa sotto la sabbia. E quindi che cosa bisognerebbe fare secondo lei? indipendenza, fare del Veneto una regione autonoma, forse quella potrebbe essere una soluzione? Ma aumentare l'autonomia al Veneto, dando più responsabilità agli amministratori locali. E il nostro augurio potrebbe essere quello di diventare una consorella di Trentino Alto Adige con gli stessi parametri, perché noi siamo schiacciati dal Trentino Alto Adige e dal Friuli Venezia Giulia, due regioni a realtà autonomistica, per cui che hanno una grande indipendenza anche economica, e credo che se ragioniamo in un contesto d'area sicuramente risolveremo il problema di tante persone, cittadini veneti, che chiedono questo. Grazie a Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso e vicepresidente dell'Unione delle Province Italiane, per essere stato con noi. Buona giornata. Noi andiamo decisamente più lontano, andiamo in Siria, perché di almeno 25 morti, tra cui una bambina, è il bilancio provvisorio dei raid aerei governativi sui sobborghi orientali di Damasco e su Aleppo. Queste le notizie di questa mattina, quello che riferiscono attivisti antiregime e testimoni oculari. Stiamo facendo in questi giorni, come sapete, abbiamo deciso di tenere accesi i riflettori sulla Siria e di sentire le voci di una serie di italiani che lavorano per l'UNICEF nelle zone, nei campi profughi, nei paesi che sono intorno, che sono Giordania, Iraq e Libano. Vi abbiamo fatto sentire il responsabile del campo profughi in Giordania, ieri quella del Libano. Oggi Valentina Furlanetto ha sentito Marzio Babille, che è responsabile UNICEF a Baghdad, che ci ha parlato, tra le altre cose, del problema del diffondersi della poliomielite. In questo momento la situazione è gravissima da un punto di vista umanitario, perché la zona centrale, nella provincia di Anbar, è sottoposta a importanti operazioni militari di pulizia dell'esercito e delle forze speciali irachene contro formazioni armate molto ben addestrate, di grande capacità operativa, che sono pervenute in Iraq dalla Siria e che hanno stabilito delle alleanze militari con gruppi armati antigovernativi in questa zona del paese. Fallujah è completamente assediata in questo momento dalle forze di sicurezza irachene ed è sotto controllo delle formazioni jihadiste, che hanno evidentemente come risultato e come conseguenza spinto nelle aree rurali più di 400.000 persone. Il progetto politico di tutti questi qua è quello di creare una nuova nazione, che è la nazione sunnita. La nazione sunnita viene evidentemente sostenuta dall'Arabia Saudita, dal Qatar, dagli Emirati, che sono anche sunniti. C'è una rivoluzione geopolitica in corso. L'Iraq, essendo formato da tre gruppi ben distinti anche geograficamente, sta implodendo su questa cosa, perché ci sono armi, finanziamenti, milizie. E quali sono le conseguenze di questo, allora? In questo momento, lei diceva, ci sono delle forti tensioni? Siamo in questo momento, come le dicevo, multiple emergenze nel paese. Ci sono i rifugiati nel nord, c'è uno sollevamento di massa, e poi evidentemente c'è la terza emergenza di cui non ho parlato finora, che è la poliomielite. E la poliomielite è rientrata da una importazione del virus dalla Siria. C'è un'epidemia in corso in Siria e purtroppo le brutte notizie sono che abbiamo già due casi certificati a Baghdad. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Uccisa una fotografa della Associated Press in Afghanistan, è stata ferita una giornalista. Il paese domani al voto per le presidenziali. Grillo dice Renzi al 41 bis per menzogna pubblica. Intanto il ministro Boschi, riforme bloccate da 30 anni per colpa dei professori. La fronda PD al Senato sulla riforma della Costituzione è ampia. Una tonnellata di veleni al giorno sversati nel fiume per tutti gli anni 60, così il PM nella requisitoria del processo sulla discarica di Bussi nel Pescarese. Tra poco parleremo col sindaco. Per Schumacher ci sono segnali di risveglio e di coscienza, riferisce la sua agente. È il momento della borsa. Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, la giornata è abbastanza positiva, Milano un più 0,19%, sul FTSE MIB un più 0,19%, anche sul FTSE All Share, anche se in realtà la mattinata era stata piuttosto debole. Quello a cui guardiamo in realtà è lo spread, Isabella, e il rendimento dei nostri titoli di Stato, perché le parole di Draghi, devo dire, hanno dato una bella spinta, una bella botta. Sì, lo spread è sceso ulteriormente, ha toccato oggi 160 punti base, i BTP sono in rialzo, questo grazie all'ipotesi che la Banca Centrale Europea possa ricorrere a un programma di acquisto bond ventilato appunto ieri dal Presidente della BCE Mario Draghi. Le borse, come dicevi, sono un pochino più caute, questo in attesa di un dato sul mercato del lavoro americano oggi pomeriggio, una statistica importante per capire lo stato di salute della maggiore economia mondiale. Gli analisti si aspettano una ripresa del mercato del lavoro, ma sulla borsa per il momento si preferisce mantenere una certa cautela. Isabella, titoli in evidenza oggi? Ma guarda, sono contrastate le azioni delle banche. Il Monte dei Paschi guadagna uno 0,4% all'indomani della notizia che la fondazione Monte Paschi ha venduto un'ulteriore quota di azioni, portandosi al 3,1% nel capitale. Il Banco Popolare cede invece lo 0,7%, questo mentre continua l'aumento di capitale da 1,5 miliardi e dopo che è emerso che il fondo americano BlackRock ha acquistato azioni pari al 6,8% del capitale. Mediaset registra un progresso dell'1,5% dopo l'annuncio che la società ha ceduto il 25% di EI Towers, che controlla le torri, con un incasso di poco più di 280 milioni. Bene Pirelli, grazie agli analisti di Deutsche Bank che formulano un giudizio favorevole. Bene anche Italcementi, più 2,1% dopo un giudizio favorevole di Merrill Lynch. Euro che quota 1,3710 contro dollaro. Grazie Isabella e buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Rapidamente un paio di sms, non male quello di Leo che dice: quando si vogliono far fuori le province magicamente si parla di scuola, sembra una via di mezzo tra un mantra e un ricatto. E l'altro sms a cui voglio rispondere è quello di Vincenzo da Udine, se fa ben caso Vincenzo, abbiamo detto molto chiaramente oggi che non si trattava di un carro armato, quello dei secessionisti veneti, ma di una ruspa in realtà mal attrezzata. Salvatore Lagatta, sindaco di Bussi, buongiorno. Buongiorno. C'è una cosa della quale io non riesco a capacitarmi in merito alla vicenda che riguarda la discarica sostanzialmente che sorge sul vostro territorio. Ed è questo, leggo che l'Istituto Superiore di Sanità nel suo rapporto presentato proprio in queste ore, è in corso un processo, parla di valori medio-alti di mercurio rintracciati nei prodotti alimentari vegetali nell'81, così come mercurio fu trovato nel 72 nei pesci e nei capelli dei pescatori a Pescara. E io non riesco a capacitarmi del fatto che sia in corso un processo ora. Me lo spiega? Il problema è, allora, a Bussi esiste la Montedison praticamente dal 1900, sono oltre 110 anni, a Bussi si è prodotto di tutto, c'erano i clorometani, c'era il clorosoda, c'erano gli antidetonanti per le benzine, in tutti questi tre impianti che sono quelli più pericolosi si trovavano tracce, utilizzava il piombo, si utilizzava il mercurio, si utilizzavano i derivati dei clorometani. Sicuramente non possiamo nascondere che era un sito, proprio perché c'erano questo tipo di produzione, inquinato, fino a quando non sono intervenute delle leggi a tutela dell'ambiente, per tantissimo tempo si sono scaricati nel fiume Tirino, che passa però, ripeto, a valle del paese, che passa proprio dentro la fabbrica, e lì si scaricavano queste sostanze, sì. Un dato che non si può nascondere. Il mercurio non si usa più dal 2007 perché l'impianto di cloro soda da Celle a Mercurio fu trasformato e va bene sindaco, ma fino ad allora è sicuro che queste sostanze c'erano. Va bene sindaco, resta in piedi la mia domanda, se io non riesco a capire se nel momento nel quale questi fatti e questi dati non dico che fossero universalmente noti, ma si sapessero, no? Com'è possibile che siamo a processo adesso e che la vicenda esca fuori con questa forza proprio adesso? Con questa. Allora, due cose. Va detto che fino a quando non si sono trovati i pozzi di Castiglione a Casavia, che sono pozzi a valle del sito industriale, e lì si scoprì che quei pozzi erano inquinati e le sostanze trovate dentro i pozzi erano riferite al tipo di produzione che si faceva al sito industriale al Monte, cioè il sito di Bussi, fino ad allora non c'è stato nessun intervento. Nel momento in cui si sono trovati quei pozzi inquinati, immediatamente si sono chiusi i pozzi, si è creato l'allarme, si è determinata anche un'emergenza idrica a valle del Pescara, si è scoperta la discarica. Sì. Le soluzioni quali sono state? Quella di fare dei pozzi nuovi, e questa volta a monte del sito industriale, per cui oggi Pescara ha un'acqua purissima. Sì, e questo lo sappiamo, però, perché abbiamo anche ospitato il sindaco di Pescara. Perché però dico, che cosa è successo allora? Che proprio questo allarmismo ha fatto sì che il sito di Bussi venisse inserito nei SIN nazionali, un sito di interesse nazionale, e da lì è partita la vicenda legale. Sì. E adesso sta venendo fuori tutto quello che tutti sapevano. Perché lei ha ragione quando fa la domanda. Tutti sapevano che quello era un sito che inquinava, tutti sapevano che quella discarica che si è scoperta nel 2007 in realtà era una discarica per qualche verso concordata anche con le istituzioni d'allora. Io ho documenti che attestano come nel 1971 la regione, la provincia, il comune di Pescara sapevano che lì venivano interrati i pesanti dei clorometani, che le assicuro sono dei residui di una lavorazione altamente tossici. Tutti sapevano, nessuno ha fatto niente, si è cominciato a fare qualcosa quando è venuto fuori il problema dell'inquinamento dei pozzi di Sant'Angelo. Allora sindaco, io innanzitutto la ringrazio, io prometto agli ascoltatori che torneremo su questa vicenda, perché i miei dubbi e le mie perplessità rimangono, e noto dalle indicazioni, da quello che ci ha detto il sindaco, che c'era anche una sorta di, vogliamo chiamarla, connivenza del territorio. Su questo voglio tornare, intanto però ci sentiamo l'inchiesta di Daniele Biacchessi, il tema è il voto di scambio. Non è un bel segnale al paese quello andato in scena ieri, prima in forma privata, nelle stanze segrete di Palazzo Chigi, e successivamente in forma pubblica, in Parlamento. L'accordo sulle riforme tra Partito Democratico e Forza Italia ha prodotto al momento un topolino. Il topolino è il DDL che ridisegna il reato di voto di scambio mafioso. Il testo, che ora torna al Senato per una quarta lettura, ha di fatto quasi depenalizzato i reati. Passano infatti da 7-12 anni stabiliti al Senato agli attuali 4-10 anni. In particolare è stata eliminata la punibilità del politico che si mette a disposizione dell'organizzazione mafiosa. E invece un principio sacrosanto, a mio avviso, perché un uomo che amministra la cosa pubblica non può essere esponente de facto di Cosa Nostra. I cittadini che lo hanno votato sarebbero dunque complici di un signore che, per ottenere un numero considerevole di preferenze, si è affidato ai criminali. Ora alla prova del reato viene ancorata la mera promessa dello scambio politico mafioso e viene cancellato il termine qualunque, riferito all'espressione altra utilità ottenuta dall'organizzazione mafiosa. Non sono mai stato un estimatore di Beppe Grillo, ma devo ammettere che non ha tutti i torti ad affermare che quello di ieri è un sostanziale regalo a Cosa Nostra e che è scandaloso accettare il principio che un politico a disposizione dei mafiosi non commette un reato. L'accordo tra i due principali partiti di maggioranza e opposizione sul voto di scambio è solo il prodotto di un tentativo più generale di riscrivere le regole e le riforme, e fin qui è tutto legittimo, anche se c'è chi grida l'inciuccio. Il problema è che tutto avviene nelle ore in cui,